con Alessandra Ferraro. Sandra, ben trovata. Grazie, ciao. Ci dici un po'. Presentiamo La Frontiera con in scena Tiziano Panici, che è un attore con cui lavoriamo già da un po' di tempo, che è presente in altri nostri lavori, e con questo spettacolo continuiamo un po' a indagare un tema che a noi è molto caro ultimamente, in cui stiamo lavorando molto, che è il confinato, più che il confine, i possibili sconfinamenti. Quindi diciamo che La Frontiera continua su un'indagine, su un tema enorme, chiaramente anche in questo momento penso che è qualcosa di molto presente nella vita di tutti noi, e però è anche veramente uno sguardo verso la possibilità del superamento, verso i sconfinamenti, diciamo, sia mentali che materiali, dove chiaramente le frontiere sono viste non soltanto come qualcosa che blocca, anche come dei workshop creativi, come delle possibilità incredibili in cui possono crearsi anche delle nuove, diciamo, forme, altre possibilità del vivere insieme. La produzione di Marge Operativo slash attraversamenti multipli, liberamente tratto da testi di Alessandro Leo Grande e Annalisa Camilli, quindi c'è un lavoro su testi preesistenti che poi vengono completamente, diciamo, sono degli spunti da cui partiamo, e poi in realtà la drammaturgia di Paco Graziani, che ha curato anche la regia, ed è quello che stavo dicendo prima. Infatti ci piaceva anticipare lo spettacolo con queste tre performance, perché anche le tre performance lavorano su Beautiful Borders di Safuriosa, su concetti, diciamo, del confine e dei disastri anche che possono creare i confini, mentre invece appunto lo spettacolo, che è diverso dalle performance, ma le radici di questo spettacolo stanno in questo lavoro di approfondimento che stiamo cercando di fare un po' da anni. Questo è un progetto, diciamo, un po' complesso, che lo stiamo facendo sia attraverso gli spettacoli, ma anche attraverso il festival, che attraverso Menti Molti, perché proponiamo con cadenza annuale, che è appunto un ragionamento sulla possibilità del superamento dei confini. È difficile, diciamo, raccontarlo, perché in realtà tocca moltissimi, come sempre, i spettacoli sono difficili da narrare a parole, perché in un'ora si condensano tantissimi elementi e riflessioni. Diciamo che all'interno, per chi conosce un po' il nostro lavoro, ritrova le nostre caratteristiche, che appunto è una drammaturgia molto che parte da delle suggestioni preesistenti, ma poi viene completamente, diciamo, trasformata. Un attore solo, che però è comunque una specie di ponte, quindi che tante voci, racconta tante cose, quindi diventa una figura multipla, e una fortissima presenza del paesaggio sonoro, che è a cura di Dario Salvagnini, quindi tutte musiche, diciamo, originali, rivisitate o create appositamente, quindi un paesaggio sonoro molto importante, che è un pezzo fondamentale dello spettacolo, la presenza di alcuni flash video, quindi come sempre anche un intreccio di più codici artistici per cercare di comunque affrontare delle tematiche del presente, ma anche cercare di dare delle possibili vie di fuga, diciamo, degli spiragli attraverso il teatro, creare anche degli squarci nella realtà. Un saluto e ringraziamento ad Alessandra Ferraro, un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto.